America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, lo scampanellio molto allegro, lo sentite, perché anche Wall Street ha celebrato ieri la vittoria del centrista Emmanuel Macron. È un volto nuovo, è un volto che promette bene, un ex banchiere a 39 anni, insomma rappresenta quello che potrebbe essere il futuro dell'Europa e magari di un'Europa riformata, perché c'è bisogno di riformare Bruxelles e l'Unione Europea. Per questo Wall Street ha celebrato, si è messa in coda naturalmente alle borse europee ed ha festeggiato con un messaggio preciso, ha festeggiato per il risultato europeo. Ha festeggiato per il multilateralismo, ha festeggiato per l'Europa, ha festeggiato perché lo spettro di una spaccatura, di un passo indietro, sembra a questo punto scongiurato, perché tutti dicono che alle elezioni del 7 di maggio Macron dovrebbe vincere senza problemi e diventare dunque il prossimo presidente francese. Ecco, questa euforia di borsa continuerà, non continuerà, non lo so, perché poi alla fine la borsa americana riflette anche quello che sta capitando qui negli Stati Uniti e ci sono segnali contrastanti, perché da una parte c'è questo rischio della chiusura del governo americano, potrebbe avvenire entro la fine della settimana, in sincronia tra l'altro con i primi 100 giorni di Donald Trump. E certo, per il presidente americano non sarebbe una gran bella festa. Ieri vi raccontavo che Donald Trump ha una delle peggiori performance per i primi 100 giorni alla Casa Bianca rispetto ad altri presidenti degli Stati Uniti. Ecco, su questo è intervenuto naturalmente Sean Spicer, il portavoce di Donald Trump, il quale ha precisato, ha detto che i primi 100 giorni sono un traguardo artificiale, che si dovrà considerare quello che l'amministrazione del presidente Trump farà da un punto di vista di riforme. E dunque si stanno introducendo in questi giorni altre riforme. Per la terza volta ci sarà il tentativo di un voto sulla riforma sanitaria e Trump è convinto che andrà in porto. Staremo a vedere. Ed ha anticipato che domani rivelerà al pubblico il suo progetto di riforma fiscale. Questo è il progetto più importante per i mercati, perché era atteso, non arrivava mai, e ci sono delle anticipazioni sul fatto che, per esempio, Donald Trump manterrà le sue promesse, come quella di ridurre al 15% l'aliquota fissa ad applicarsi ai profitti aziendali. Questa sicuramente sarebbe una bella notizia, perché il prelievo oggi sulle aziende è del 35%. Certo, resta il punto interrogativo: dove si andranno a recuperare questi fondi? Qualcuno parla della tassa all'importazione, una tassa sui confini, qualcuno ricorda che si dovrà ottenere qualche cosa dal Messico. Insomma, la situazione resta alquanto incerta, ma forte attesa per i mercati. E dunque, se questo progetto avrà una sua credibilità, io credo che le borse continueranno a salire. The President extending an invitation for a rare briefing on North Korea. Corea del Nord, la situazione, come dire, si complica, ma non è che si complichi perché ci sono state delle cose che sono capitate, ma perché la tensione cresce. Abbiamo avuto l'ambasciatore Nikki Haley che ha detto che se la Corea del Nord farà l'esperimento, il test nucleare che ha promesso di fare, potrebbe partire un attacco. La Cina che dice abbiate pazienza, non fatevi prendere la mano. Lo stesso ha fatto Donald Trump, perché ha ricevuto gli ambasciatori alle Nazioni Unite oggi alla Casa Bianca e ha detto loro aspettatevi qualche novità in Corea del Nord, perché noi non potremo tollerare un'escalation né la provocazione. E la provocazione il leader coreano continua a farla, perché ieri ha arrestato un professore americano. Ma perché devi arrestare un professore americano quando c'è questa tensione? Veramente te la stai andando a cercare in qualche modo. Oggi ci sarà invece una riunione di Donald Trump con i 100 senatori americani. Si trasferiranno al Campidoglio, a Casa Bianca, per essere aggiornati proprio sugli sviluppi che riguardano la Corea del Nord. Dunque questo confronto a distanza continua. Qualcuno dice forse questo sta capitando magari per distogliere l'attenzione da alcune delle vicende economiche. Restiamo sull'economia, questa volta l'economia italiana. More Europe is needed, not just for monetary union, which is of course a pillar of European integration. Il nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan ieri mattina è intervenuto sia sulla CNBC che su Bloomberg News. Rassicurato bene, soprattutto su uno sviluppo inatteso della settimana scorsa. Di fatto domenica si sono chiuse le riunioni del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale e ci sono stati vari dibattiti. C'è stato un dibattito importante in ambasciata d'Italia organizzato dall'ABI, un dibattito al quale sono intervenuti oltre al ministro dell'economia anche Camillo Venezio, amministratore delegato della Banca del Piemonte, nonché uno dei vicepresidenti dell'ABI. Fra gli altri, il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, per fare un confronto fra esigenze del tessuto industriale italiano e settore bancario italiano, il direttore generale della Confindustria, Marcella Panucci. Ecco, il quadro d'insieme, devo dire, è tutto sommato rassicurante. Questo quadro d'insieme è emerso dallo stesso rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Eppure, proprio quel venerdì, subito dopo la tavola rotonda organizzata da ABI e Confindustria, subito dopo l'intervento del ministro e naturalmente del direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, il quale ha dato un quadro rassicurante sul fronte del settore bancario, le cose stanno procedendo, ha detto, i non performing loans, quindi i crediti inesigibili, hanno ormai trovato una loro dimensione per poter essere in qualche modo assorbiti. Ecco, nel momento in cui questo quadro rassicurante, partito dal fondo, col contrappunto degli interventi in ambasciata, ci ha dato così il polso alla nostra situazione, è intervenuto Fitch, agenzia per la valutazione del credito, che ha fatto un downgrading dell'Italia, da BB+ a BBB. Ecco, devo dire, qui si impone un piccolo commento, una piccola riflessione, perché io non so che cosa si erano bevuti questi di Fitch per esprimere questa valutazione negativa dell'Italia nel momento in cui intanto non avevamo ancora avuto i risultati delle elezioni francesi, per cui potevano esserci sì delle preoccupazioni, ma aspetta che ci siano le elezioni francesi, aspetta i risultati che saranno ai primi di maggio delle primarie democratiche, cerca di dare una valutazione d'insieme, tieni conto di quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale. Invece no, è stato, come dire, un fulmine a ciel sereno, cosa che giustamente ha irritato molto il nostro ministro dell'economia, che sia nell'intervista alla CNBC che in quella Bloomberg ha dato un quadro sicuramente positivo e incoraggiante di quello che sta capitando nel nostro paese e soprattutto un impegno a continuare lungo la strada delle riforme. Ecco, detto questo, alcuni degli elementi di preoccupazione ci sono, perché la crescita italiana è allo 0,8% mentre quella europea all'1,7%. Dobbiamo continuare a contenere il debito pubblico, che è leggermente aumentato ma è lungo la strada della diminuzione, quindi anche lì Fitch secondo me ha preso una cantonata, ma si pone la domanda di fondo: come procediamo per cercare di far crescere di più l'Italia? Con nuove misure restrittive per rispettare certi parametri imposti da Bruxelles in materia di rapporti di disavanzo PIL, che dovrebbe tendere allo zero, in materia di diminuzione del debito e così via, così via, o prendiamo delle misure magari più espansive, per esempio come liquidare una buona parte dei beni immobiliari del demanio italiano? Ci sono, pensate, 400 miliardi di euro che il governo italiano potrebbe vendere e collocare sul mercato, creando, come dire, una macchina, una cinghia di trasmissione molto utile per la crescita e per l'economia. Ecco, ieri ha parlato a New York anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e gli ho proprio chiesto qual era la sua ricetta guardando in avanti: quella per una maggiore austerità seguendo passo passo le indicazioni che arrivano dall'Europa, oppure magari ascoltando quello che dicono molti, e cioè liquidiamo una buona parte del nostro patrimonio immobiliare. Sentiamo la sua risposta ieri alla colazione offerta dal GEI, gruppo esponenti italiani, al ristorante Le Cirque. Noi dobbiamo fare una politica per la crescita, senza per questo, come dire, aumentare allegramente il debito, ed evidentemente la dismissione di una parte rilevante del patrimonio immobiliare pubblico, è un elemento che può essere usato, deve essere usato per la riduzione del debito e per un'attenzione alla crescita. Altrimenti corriamo il rischio di avere un effetto che viene azzerato, perché a una politica monetaria espansiva contrapporre una politica economica prociclica addirittura significa non realizzare gli effetti di una politica economica che invece negli Stati Uniti d'America, dove c'è convergenza tra Fed e politica economica, si realizza. Basta guardare il mondo per tentare di fare quello che dovremmo fare. Dopodiché si pongono due questioni, una questione italiana e una europea. Se ci fermiamo a quella italiana, in Italia solo la dismissione del patrimonio immobiliare potrebbe ridurre sostanzialmente il debito e dare un lancio sulla crescita non indifferente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su americamediguato.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. So, what's been going on while I've been gone? It is wonderful to be home. It is wonderful to be at the University of Chicago. Ecco, questa non è la canzone del giorno, è Barack Obama, ed è una sua dichiarazione di ieri che ci porterà alla canzone del giorno, perché Barack Obama per la prima volta ha rotto il silenzio, ha parlato alla University of Chicago, è tornato a casa ed è stato molto spiritoso, perché ha detto: ma allora ditemi che cosa è successo in tutto questo periodo in cui io non c'ero, sarà successo sicuramente qualcosa di importante, ditemelo. Poi ha aggiunto: naturalmente molto bello essere di nuovo a casa, di nuovo all'Università di Chicago. Barack Obama Obama ha anche promesso che il suo prossimo lavoro sarà un lavoro dedicato alle nuove leve, alle nuove generazioni. Sarà un lavoro, ha detto, che ruoterà anche alla missione della sua nuova Presidential Library. Voi sapete che c'è questa tradizione in America di avere una biblioteca presidenziale attorno alla quale poi si sviluppano una serie di missioni. Per esempio quella di Jimmy Carter si è focalizzata molto su missioni di pace. E Barack Obama dice che vuole preparare la prossima generazione dei leader in modo che siano pronti a ricevere il testimone e a iniziare a cambiare il mondo. Tra l'altro, un'anticipazione, perché Barack Obama sarà in Italia proprio ai primi di maggio, dunque sarà interessante perché il nostro paese sarà uno dei primi che visiterà dopo l'uscita dalla Casa Bianca. Nessun riferimento, in questo Obama è stato impeccabile, nessun riferimento al presidente Trump. E dunque, eccoci alla canzone del giorno. Non poteva che essere di T.I., dedicata a Barack Obama, I Am Back. Rieccomi. I never let you down, I'ma shine on sight. Keep your mind on your grind and off of mine's alright. Right, hard, I'ma ball, don't know squares. I float in $250,000 cars everywhere I go. I know, in the lead it may seem me might be, but no matter what they doing, they don't do it like me. Like a G, I hold it down for the town I'm at. In a flash like that. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.